L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta, come sempre, dagli studi di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale, un programma in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee, con la vocazione a dare voce, a dare respiro, a dare contenuto all'Europa. Come sempre il nostro è un viaggio che potete fare anche virtualmente attraverso le nostre pagine Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure Twitter, il mio account personale, @ Federico Taddia, dove andiamo a segnalare, dove andiamo a indicare minuto per minuto i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. L'altra Europa, anche un'Europa meno nota, anche un'Europa meno conosciuta. Uno pensa all'Europa e subito va a Bruxelles, invece c'è tutto anche un altro mondo, e c'è chi questo mondo l'ha toccato, questo mondo lo respira, questo mondo lo visita, con questo mondo stringe contatti per l'Europa che è stata, per l'Europa che è, per l'Europa che sarà. Oggi faremo un viaggio, lo faremo insieme a un libro appena uscito. Andremo a conoscere l'Europa oltre il muro. Sfrecciano sopra i ponti TGV, sulle cicatrici gonfie del 43, passano come fili di sutura da una parte all'altra a questi lembi di pianura. Donne imprendibili a Copenaghen che passano veloci, donne che vanno di fretta mentre si affollano agli incroci. Musica dal vivo che si ascolta nei locali. La voce che state ascoltando è quella di Paolo Bergamaschi, che abbiamo già conosciuto qui all'Altra Europa, cantautore per passione ma per professione, consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo, autore di questo libro intitolato L'Europa oltre il muro, 20 anni di viaggi e incontri nei paesi dell'est, edizioni Infinito, e ci piaceva oggi viaggiare con lui ed è qua in studio con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato. Buongiorno radioascoltatore. 20 anni, hai festeggiato i tuoi 20 anni di viaggi e incontri in questa altra Europa per davvero, perché è un'Europa che ha confini stretti con quella che è l'Unione Europea, ma anche con quello che è che c'è ad est, che c'è a fianco, aree anche che probabilmente saranno un giorno aree di questa Unione. Cosa hai raccontato e anche quale messaggio hai voluto celare, nascondere, fotografare in questo libro? Intanto la prima parte è dedicata ai paesi in via d'adesione, cioè ai paesi potenzialmente candidati o che già oggi sono candidati, che stanno facendo i negoziati appunto per arrivare un giorno ad essere membri dell'Unione Europea. Quindi mi riferisco a tutti i paesi dei Balcani, salvo un'eccezione, perché un capitolo riguarda l'Islanda ed è l'unica parte che non fa parte dell'est, che fa parte dell'ovest, è un paese particolare, insomma tutto suo. E appunto il libro, attraverso questi viaggi che sono costretto più volente che nolente a fare in nome della, o per conto della Commissione Esteri o all'interno delle delegazioni della Commissione Esteri, questi viaggi appunto mi hanno dato la possibilità di scrivere tutta una serie di reportage che sono rivolti al grande pubblico, cioè a tutti coloro che non frequentano le istituzioni comunitarie. E appunto questo è un libro rivolto ai non addetti ai lavori, per dar modo alla gente che non bazzica nei palcoscenici europei di capire cosa sta avvenendo sia all'interno dell'Europa, qual è l'atteggiamento delle istituzioni europee nei confronti dei paesi esterni all'Unione Europea, ma soprattutto cosa bolle in pentola nei paesi extra Unione Europea, che però fanno parte del continente e che quindi in base al Trattato di Lisbona possono presentare domanda d'adesione e entrare un giorno a far parte dell'Unione Europea. Qui, guarda, mi piacerebbe anche entrare un attimo e capire quella che è proprio la specificità del tuo lavoro, nel senso, quando tu vai in un paese vai in quanto appunto rappresentante delle istituzioni, vai là a raccontare che cos'è l'Europa o vai a raccogliere pezzi da portare poi nel cuore dell'Europa? No, io vado là a raccogliere sostanzialmente le opinioni, raccogliere le impressioni per poi concretizzarle, materializzarle, portarle con i documenti, con le risoluzioni, con gli emendamenti che vengono presentati ai vari rapporti che vengono discussi all'interno della Commissione Affari Esteri, che poi arrivano alla plenaria del Parlamento. è difficile essere questa sorta di traduttore, perché di fatto devi, sei un po' un interprete tra quello che è il sapore probabilmente di un popolo anche e quelli che sono i documenti, quindi bisogna essere, si è lì in mezzo. Ma io devo sottolineare una cosa, il libro tocca le questioni politiche, ma tocca anche e forse soprattutto le questioni culturali extra politiche, perché nei miei libri insomma si toccano i vari aspetti, che siano le questioni che riguardano, non so, la cucina, la musica del posto, le abitudini della gente del posto, proprio per dare un'idea che vada al di là della sterile visione politica, della sterile analisi politica dei criteri di adesioni, se questi vengono rispettati o meno dal paese che ha chiesto, che bussa alla porta per entrare nell'Unione Europea. Europost-it. Primavera Sound tra Barcellona e Porto. Comincia la bella stagione, ovvero la stagione dei festival. Si parte allora, come tutti gli anni, dal Primavera Sound, uno degli eventi di musica indie e di avanguardia tra i più importanti in Europa. Durante le 5 giorni di concerti, che si svolgerà dal 22 al 26 di maggio al Parc del Forum di Barcellona, si esibiranno i Blur, Nick Cave and the Bad Seeds, Fiona Apple, Phoenix e tanti altri. Si prosegue poi il weekend successivo con il fratello minore, l'Optimus Primavera Sound, dal 30 maggio al 1 giugno al Parque da Cidade di Porto con James Blake, elettronico bambino prodigio londinese, con il post-rock futuribile degli americani Explosions in the Sky, i leggendari Dinosaur Jr. e gli eterni sognatori pop Dead Can Dance. Tutte le informazioni sul sito ufficiale primaverasound.com. Eccoci qua ancora in diretta con l'Altra Europa, sempre con Paolo Bergamaschi e il suo libro L'Europa oltre il muro. Tanti capitoli, tante nazioni, poi magari andiamo anche a scorrere velocemente l'indice per capire qual è il viaggio che si può fare con, attraverso queste pagine. Però Paolo, individuiamo un caso emblematico anche per capire, al di là del contenuto del libro, e il tuo lavoro, cosa vuol dire raccontare l'Europa attraverso le altre Europe, cioè attraverso i suoi confini. Beh, io vorrei tirare l'attenzione su quello che è l'argomento d'attualità a livello internazionale, ovvero sia le relazioni fra Serbia e Kosovo. L'accordo raggiunto il 19 di aprile fra Belgrado e Pristina per la normalizzazione delle relazioni. Vorrei ricordare che il Kosovo è un'ex provincia della Serbia, di fatto indipendente, anche se de jure, quindi formalmente ancora non lo è, perché il Kosovo non fa parte delle Nazioni Unite. E però la questione della normalizzazione delle relazioni è una condizione preliminare per quanto riguarda la Serbia alla possibilità di aprire i negoziati di adesione in occasione del Consiglio europeo che si svolgerà a fine giugno. E lì l'Europa che ruolo ha giocato? Lì... ha preteso questo accordo? È stato solo osservatore? Ha offerto anche strumenti magari per trovare soluzioni? L'alto rappresentante della politica estera di sicurezza comune, Catherine Ashton, ha ottenuto un grandissimo successo in termini di prestigio e di reputazione per l'Unione Europea in quanto tale, perché è riuscita appunto a mediare un accordo fra le parti, arrivando a questo accordo storico che consentirà ai due paesi di stabilire relazioni di buon vicinato. Poi ovviamente l'accordo dovrà essere messo in pratica ed è appunto questo che stanno guardando gli osservatori dell'Unione Europea, per verificare che l'accordo possa svilupparsi secondo i contenuti. Questa è la politica, poi quando invece sei sul territorio, che sapori e percezioni ti porti a casa da quelle zone? Cioè... da quelle zone, perché quando si esce dagli sterili ambienti della politica, poi dopo si entra nei ristoranti, si va alla vita, si percorrono le strade che normalmente vengono percorse dalla gente di quei posti, che va al lavoro, si seguono le attività quotidiane, la routine quotidiana di quella gente, e vengono tutte riportate in questi racconti di viaggio. Questa è l'Europa, adesso continuiamo a viaggiare con Paolo fra pochissimo, invece adesso cambiamo argomento e andiamo a toccare un altro tema di strettissima e drammatica attualità. Tu carita de niño guapo se la ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Gli ultimi dati di Telefono Rosa in Italia denunciano un aumento terrificante della violenza sulle donne. Ci siamo, come sempre, ci siamo chiesti, ok, è un dato solo italiano, cosa succede fuori, cosa succede in Europa? Ci sono ricerche, ci sono studi, abbiamo trovato alcuni dati, anche questi impressionanti. Ci sono studi condotti dal Consiglio d'Europa che dicono che tra il 20 e il 25% delle donne comunque in Europa sono state vittime di violenza fisica almeno una volta nella vita. La violenza domestica rappresenta la forma di violenza più comune e diffusa. Tra il 12 e il 15% delle donne in Europa l'ha subita dopo i 16 anni d'età. Secondo stime del Parlamento europeo sarebbero 500.000 le donne in Europa che hanno subito la mutilazione genitale femminile. Questa per avere una fotografia, sono sterili dati che però urlano il bisogno di un cambiamento culturale e non solo. Quindi volevamo toccare il tema e lo volevamo fare anche ispirati a un progetto interessantissimo che abbiamo scoperto. Protagonista è una scrittrice di origine italiana, è un avvocato specializzato in diritto di famiglia, grazie a un progetto da lei ideato in accordo anche con il governo, e sono stati ridotti i maltrattamenti del 64% in Gran Bretagna. Diamo il benvenuto a Simonetta Aniello Horney. Ciao Simonetta. Buongiorno. Buongiorno a te. Grazie intanto, so che sei al Salone del Libro di Torino, anche perché questo progetto è molto ben raccontato da un libro che è un po' anche il manifesto, no? Possiamo chiamarlo manifesto di quello che è il tuo pensiero, sì, e di quello che è il tuo lavoro, intitolato Il male si deve anche raccontare, libro scritto a quattro mani con Marina Calloni, docente di filosofia politica e sociale alla Bicocca di Milano. Simonetta, cosa hai ideato e cosa stai combinando? Qual è il cuore del tuo lavoro? Allora, il cuore del libro è questo, che io ho lavorato per 30 anni nel campo del diritto di famiglia e dei minori, per cui la violenza domestica la conosco purtroppo bene, e il mio studio, Hornby & Levy, a Brixton, a Londra, è stato il primo in assoluto in Inghilterra ad avere una sezione dedicata alla violenza domestica. Attenti, la violenza domestica è anche contro gli uomini. In minima parte, il 7% dei casi sono di donne sugli uomini, per cui diciamo sono le donne che muoiono, ma anche alcuni uomini ne soffrono. E abbiamo fatto del nostro meglio, che non è fatto nulla, perché non si è mai attaccato il problema in modo globale riguardo la, in genere la donna vittima. E Patricia Scotland, un avvocato che io conosco e che poi è diventata ministro laburista, lo ha fatto, ha creato un sistema senza legislazione per cui la donna vittima di violenza viene immediatamente incontrata da un sistema che l'accoglie totalmente, che bada ai bisogni suoi e dei figli, e che non la obbliga a ripetersi costantemente, a chiedere per avere l'alloggio, a chiedere denari per far mangiare i figli, a chiedere aiuto da tutti i punti di vista. E con questo sistema, che coinvolge anche i datori di lavoro, ha ridotto le morti a Londra da 49 a 5 nell'arco di 8 anni, la recidività di quasi la metà e il numero delle condanne al 70% dal 30%. È un successo straordinario dovuto all'intelligenza di questa donna e alla buona volontà di tutti gli enti che si sono coordinati per fare quello che si sarebbe dovuto far sempre. Quindi un lavoro di coordinamento, un lavoro di sostegno, un lavoro di prevenzione, ma un lavoro anche di intervento rapido, credo, là dove c'è bisogno. E Simonetta, ti chiedo di rimanere in ascolto, perché volevamo anche fotografare quella che è la situazione dal punto di vista istituzionale, o tentare di farlo. Con noi c'è Lucrezia Titi, della Direzione Generale della Giustizia della Commissione Europea. Buongiorno Lucrezia, ben ritrovata all'Altra Europa. Buongiorno a voi. È difficile chiedere in pochi minuti di fare una fotografia, però mi piaceva e volevo avere anche il tuo supporto, perché qualcosa si sta facendo, esiste una legislazione europea contro la violenza sulle donne? Sì, nel 2011 la Commissione ha adottato proprio un pacchetto di misure a protezione delle vittime di reati in generale, che prevede appunto una serie di misure affinché le vittime ricevano un adeguato trattamento sia a partire dalla denuncia del reato fino alla sentenza del processo. E all'interno di questo pacchetto vi è ad esempio una direttiva adottata nell'ottobre scorso, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime. E all'interno di questa direttiva ci sono una serie di misure che avranno proprio un impatto positivo, specialmente sulle donne vittime di violenze e di reati a sfondo sessuale. E ad esempio la Commissione ha proposto di istituire proprio un meccanismo basato su una valutazione caso per determinare se una vittima si trovi in una situazione di specifica vulnerabilità e necessiti di una protezione speciale. Mm-hmm. Il caso, le donne vittime di violenza hanno appunto una vulnerabilità più marcata dalla natura dei reati che subiscono e la relazione spesso di dipendenza nei confronti del trasgressore, e quindi in questi casi devono essere messe in atto delle misure speciali di protezione durante il corso del procedimento penale. Certo. Questa è una direttiva che deve essere recepita dagli Stati entro il novembre 2015, quindi adesso è in mano agli Stati nazionali per la recezione e la trasformazione in legge. Certo, quindi... Un'altra misura che vorrei sottolineare, che fa parte di questo pacchetto di misure per le vittime, è il cosiddetto ordine di protezione europeo penale, che prevede che un provvedimento restrittivo messo in atto contro ad esempio un partner violento in uno Stato sia automaticamente riconosciuto in un qualsiasi altro Stato dell'Unione Europea qualora la vittima dovesse trasferirsi o viaggiare. E anche questa è una direttiva che deve essere attuata dagli Stati entro il gennaio 2015. Ok, quindi l'Europa che richiama la responsabilità, ovviamente anche i singoli Stati. E Simonetta, EDV, eliminazione della violenza domestica, questo è il nome del progetto, il 30 maggio nascerà anche la sezione italiana. Questo significa che è un progetto esportabile, è un progetto replicabile, è una risposta che può essere veramente una risposta che nei singoli Stati si può utilizzare? Simonetta? Pronto Simonetta? La Barone Scotland è conosciuta in tutta l'Europa, è stato al Consiglio d'Europa tante volte, ha rappresentato l'Inghilterra in varie cose. Dunque, è stato esportato a Trinidad e in Spagna. La Turchia sta occupandosene. La Eliminating Domestic Violence ha soltanto 2 anni come organizzazione globale. È totalmente esportabile. La grande novità è che c'è una persona, un tutor della donna vittima di violenza, che scatta immediatamente, che tutti gli enti a monte hanno già deciso quello che daranno secondo un punteggio di gravità. Mm-hmm. E ottenere quello che dice la legge è bello, però uno dice alla donna c'è un ordine di allontanamento e lei dice chi mi protegge se viene a casa, e le dico chiami la polizia. Questo è irrisorio, la donna ha paura e non fa niente, torna dall'aggressore. Avere una persona lì che colleghi tutto e la sostenga è la chiave. Questa è la chiave, questo è il cuore del progetto. Simonetta, ti ringrazio davvero per averci dato un assaggio del bellissimo lavoro che state facendo. Ricordiamo il libro, Il male si deve anche raccontare. Grazie, complimenti per la passione anche. Ti ho seguito ieri al Salone, ho visto veramente la passione che ci metti in questa cosa che tu chiami dovere, ma è sicuramente qualcosa di più. Il male si deve anche raccontare, Feltrinelli editore. Ciao Simonetta, buon lavoro. Lucrezia, grazie come sempre per tentare di sintetizzare quelle che sono le direttive, che non è mai facile, vero? Cercare di tradurre quello. Dimmi. Vi sono anche i fondi a disposizione delle istituzioni pubbliche e private che sono gestiti dalla Commissione, quindi nell'ambito non solo della protezione ma anche della prevenzione delle violenze, in questo caso delle violenze sulle donne. Quindi è difficile sintetizzare la legge, ma poi ci sono anche tante azioni concrete che si spiegano in progetti sul terreno, sul territorio. La cosa che che traspare, insomma, e che mi piace comunque, che c'è un ragionamento, c'è un pensiero, c'è un'attenzione costante, nel senso non è solo una risposta a fenomeni acutizzati, no? A momenti dove tutti parlano di quell'argomento, quindi bisogna fare qualcosa. Succede, è comunque c'è una quotidianità legata a questa attenzione, legata a dare risposte concrete, a questo dramma. Assolutamente, poi i procedimenti sono procedimenti lunghi e a 360 gradi, quindi che cercano di coprire i vari aspetti di un fenomeno che non colpiscono solo in una direzione, quindi senza dubbio, sì, è un'attenzione costante che non si riduce semplicemente a delle date che segnano il calendario Certo, delle istituzioni. certo. Grazie davvero a Lucrezia Titi della Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea. Buon lavoro, Lucrezia. Grazie a A voi, presto. grazie, arrivederci. Europostit. Il Parlamento europeo a 360 gradi. Siete curiosi di vedere com'è il Parlamento europeo all'interno? Ma vi siete persi la giornata a porte aperte che si è tenuta in occasione della Festa dell'Europa? Nessun problema. C'è un altro modo virtuale per visitare lo stesso il Parlamento. Andate su www.europarl.europa.eu e cercate nelle news. A fianco trovate i link alle foto e ai filmati navigabili a 360 gradi. Si possono vedere anche i reportage della giornata a porte aperte e l'album della festa. La prossima settimana, invece, sarà la volta della sede del Parlamento di Strasburgo. Larga la strada che porta su a nord, liscia, scorrevole e diritta. Sembra di essere su un tapis roulant, mentre oltrepasso una linea che c'è ma non c'era, non c'era, Ancora ma buon c'è, sabato da Federico Taddia, questa è non l'altra c'è ma Europa, c'è, questo è C'è ma non c'era, Paolo, è questo il titolo del pezzo? Sì. sì. Come precisamente? C'era e non c'è. Giochi Giochi di parole in giochi. relazione alle frontiere. Le frontiere che tante volte hai visto crollare, hai Hanno subito uno sconquasso le hai notevole, visto direi, negli ultimi sconquassare 20 anni, eh. e molte volte tuttora le superi per andare a vedere le altre Europe, l'hai raccontato in questo libro, l'Europa oltre il muro, Infinito Edizioni. Paolo, andiamo veramente oltre i confini, quell'Europa che è là, è fuori dall'Unione, ma c'è, paesi straordinari, paesi vitali, paesi di cui si sa pochissimo, paesi che tu ami particolarmente, tra Sì, mi l'altro. riferisco ai paesi del cosiddetto partenariato orientale, in base alla classificazione di Bruxelles, quindi una classificazione che utilizza i termini dell'Unione Europea, cioè i paesi che fanno da cuscinetto fra Unione Europea e Federazione Russa, che erano i paesi che facevano parte una volta dell'Unione Sovietica, appunto, e che oggi usufruiscono e godono di frontiere che non c'erano e che adesso ci sono, mentre invece all'interno dell'Unione Europea le frontiere c'erano e adesso non ci sono più, ed è questo il gioco di parole della canzone. Ascolta, sono paesi che hanno voglia di Europa. Sono paesi che hanno molta voglia d'Europa, a tal punto che nonostante la crisi profonda che sta vivendo oggi l'Unione Europea, desiderano abbondantemente e fortemente approfondire le relazioni con l'Unione Europea e pensano un giorno di poter entrare a far parte dell'Unione Europea. E ti ribalto la domanda, e noi siamo pronti per considerarli parte della nostra Europa? Perché, come sempre, la paura del diverso traspare forse a livelli altri, però veramente non abbiamo conoscenza di quei popoli, di quelle culture, le consideriamo altro da noi, troppo oltre rispetto all'Europa. Ma vorrei dire che la percezione, la consapevolezza dell'Europa nel suo insieme e del potenziale europeo è ancora abbastanza limitata, per non dire bassa, all'interno dell'Unione Europea, all'interno delle 27 e dal 1 luglio 28 opinioni pubbliche europee, proprio perché manca un'opinione pubblica europea in quanto tale. E questo è il grosso problema, il grosso punto critico e di debolezza dell'Unione Europea. Poi in quei paesi, poi all'esterno del muro, io dico l'Europa oltre il muro, e il muro faccio riferimento a Schengen, questa barriera che che impedisce la libera circolazione delle persone e che rende umiliante alle persone all'esterno del muro di poter entrare anche solo per visitare i nostri paesi. Ebbene, per loro l'Unione Europea continua a brillare di una luce che non è mai stata debole, non è mai stata indebolita, è ancora una luce fortissima che investe tutti loro e che li abbaglia per certi sensi, nel senso che li invoglia costantemente ad avvicinarsi all'Unione Europea. Prima, quando ti ho chiesto come sono queste nazioni, tu che le hai frequentato, le hai frequentate tanto, e mi hai detto che c'è energia. Hai usato anche la parola sono pazzi, nel senso però ti avevi gli occhi illuminati, quindi era un essere pazzo che nascondeva qualcosa. Certo, mi riferisco in particolare ai paesi del Caucaso meridionale, cioè Armenia, Georgia e Azerbaigian, che è un mondo a parte, davvero, che meritano di essere visitati questi paesi. Appunto le riporto abbondantemente nei miei libri, sia nell'ultimo che nei libri precedenti. Il Caucaso è una terra affascinante, favolosa veramente, che merita un'attenzione particolare. Tra l'altro molto simile dal punto di vista temperamentale a noi. Ah, sì, eh? Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Adesso invece vi riporto nella nostra Europa, siamo al di là del muro di Berlino in questo caso, sto parlando della Polonia. Proprio il premier italiano Letta un paio di giorni fa ha avuto l'incontro, è andato in Polonia, ha detto sono contento di essere qua, siamo molto simili, abbiamo idee comune. Questa Polonia che sembra un po' una piccola locomotiva d'Europa, una Polonia che chiama i giovani italiani, venite, siamo un paese in crescita, da noi c'è lavoro. Volevamo così fare una piccola riflessione, capire cosa è successo in questo incontro, ma soprattutto capire cosa sta succedendo in Polonia, e lo facciamo con Marek Lennert, corrispondente di Polskie Radio, la radio pubblica polacca. Ciao Marek, ben ritrovato. Ciao, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi. Tutti in Polonia, quindi è là c'è lavoro? Sì, volevo solo in due parole rifarmi alle vostre riflessioni sull'opinione pubblica europea. Certo. Che non esiste, così sembra. E da questo punto di vista la visita di giovedì di Enrico Letta a Varsavia era sì una cosa strana. L'opinione pubblica italiana ha visto il premier italiano in un ambiente strano, non suo, non consueto, parlare dell'IMU, e questo è il messaggio che è arrivato da Varsavia. Condividete la mia opinione che è ben poco. Anche in Polonia la visita del primo ministro italiano è stata vista per esempio come l'occasione, adesso lo abbiamo qui e proviamo a risolvere il problema dei recenti licenziamenti alla Fiat. Ovviamente con molto orgoglio i polacchi, parlando della visita oppure approfittando della visita, hanno tirato fuori questa cosa, soprattutto la comunità italiana, piccola però si vede, ed è appunto motivo di orgoglio per tutti noi. A Breslavia, a Wrocław, giovani italiani ben istruiti che vanno a lavorare, guadagnano forse le stesse cifre che qui in Italia, però già sono grandi, non sono più bamboccioni, non stanno a casa dei genitori, lavorano, purtroppo non lavorano presso le ditte, presso le società polacche, lavorano per le multinazionali, che però, visto che stanno nel nostro paese, vuole anche dire che questo paese attira l'attenzione e investimenti dall'estero. Con consapevolezza, mi pare. Consapevolezza, nel senso che è un paese che ha consapevolezza del proprio ruolo e della propria forza. Questo è meno quello che traspare dalle dichiarazioni. Sì, sì, sì. Certamente i polacchi sono orgogliosi. Unica cosa, unico neo che è sempre presente, insuperabile, e in questo hanno si sono trovati d'accordo i nostri primi ministri, e la disoccupazione, soprattutto disoccupazione dei giovani. Noi, nonostante appunto questi parametri tutti, crescita sempre più, sempre, anche se sono 2,5 o 3% all'anno, è infinitamente migliore di quello che osserviamo in Italia o in altri paesi che sono ancora in crisi. Nonostante ciò, disoccupazione non diminuisce, se non cresce addirittura, per cui si sono trovati d'accordo sia Tusk che Letta nel chiedere all'Unione Europea, nell'anticipare, perché si sa che si doveva attingere a questi fondi e muovere queste iniziative di lotta contro la disoccupazione giovanile non l'anno prossimo, bensì quest'anno, e questi saranno i loro sforzi comuni ai vertici di maggio e giugno a Bruxelles. Marek, ti ringrazio davvero per questo assaggio, ma nelle prossime puntate voglio tornarci a parlare di Polonia. Perché in Polonia parla di Tusk come candidato a succedere a Barroso. Ecco, quindi vogliamo essere appunto i primi a capire, stai facendo così quindi con la testa. È un tema interessante. È un candidato di successo. La Polonia sicuramente è l'esempio concreto più lampante del successo del processo di integrazione europea. Però senza euro, ma lì si può discutere. E ne discuteremo. Grazie Marek, a presto qui all'Altra Europa. Buona grazie. Giornata a tutti. Eccoci qua ancora con Paolo Bergamaschi. L'Europa oltre il muro, ma tanto oltre che si è arrivato anche in Asia centrale. Certo, sono arrivato nelle steppe dell'Asia centrale, appunto è la terza parte del libro interamente dedicata a questi cinque paesi che sono le cinque repubbliche, i cinque stan che facevano parte una volta fino al 91 dell'Unione Sovietica e che sono diventati molto spesso senza volerlo indipendenti. E come mai che sei voluto arrivare fino là per raccontare quelle che sono le relazioni con l'Europa? Sì, certo, per fare il punto della situazione su quelli che sono i rapporti bilaterali fra queste cinque repubbliche e l'Unione Europea. Uh-huh. Cioè l'interesse dell'Unione Europea per questi cinque paesi è sostanzialmente dettato da una cosa, gli idrocarburi. L'Europa ha bisogno di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico e si è rivolta ovviamente ai paesi dell'Asia centrale. Uh-huh. Paolo, cambio completamente argomento, però anche da lì voglio una suggestione. L'Islanda, che non è un tuo viaggio è est appunto, ma un viaggio a nord in una nazione fantastica, in una nazione che ha mille contraddizioni nel suo rapporto con l'Europa. Certo, partire da quella fascia di paesi che sono quasi membri e che però non diventano membri perché non vogliono diventare membri, perché hanno scelto di rimanere al di fuori, godendo di alcune parti a loro utili, appetitose all'Unione Europea, tipo il mercato unico, tipo lo spazio di Schengen, ma che recalcitrano o resistono alla possibilità di entrare un giorno a far parte dell'Unione Europea a pieno titolo. E come tentate di convincerli? L'adesione è un processo volontario, quindi dipende sostanzialmente dalle popolazioni di quei paesi. Mm-hmm. Se loro decidono ne faranno parte. L'Islanda sta concludendo i negoziati di adesione e poi attraverso un referendum deciderà se entrare a far parte o no, come peraltro già deciso due volte la Norvegia. Dopo aver concluso positivamente i negoziati di adesione, attraverso un referendum i norvegesi hanno deciso comunque di rimanerne fuori. E anche noi adesso viaggiamo verso nord, direzione Malmo, in Svezia. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break? Questa è la canzone danese, una delle favorite all'Eurovision Song Contest, questa manifestazione europea, questo palco che richiama milioni di spettatori ogni anno. Questa sera ci sarà la finale, siamo a Malmo, siamo in Svezia e là sta passeggiando in questo momento, almeno così ha detto via Twitter per le strade della cittadina, c'è Marta Cagnola per raccontarci il clima che si sta respirando. Ciao Marta! Ciao, benvenuti a Malmo, e infatti sono davvero nel pieno centro della città, mi stanno guardando tutti un po' strano perché hanno capito che sto parlando ad alta voce al telefono e cercano un po' di capire cosa sto dicendo, perché sì, sto passeggiando in mezzo ai negozi di questa cittadina deliziosa, molto calda, perché la scorsa settimana ci chiedevamo che tempo avrebbe fatto, ebbene in Svezia è estate, mm-hmm. Mi hanno detto però che è una rarità, credo sia stato un benvenuto riservato a me. Ebbene sì, questa sera la gran finale, il gran finale dell'Eurovision di quest'anno, con attenzione, attenzione, la Danimarca, che abbiamo sentito strafavorita dai pronostici, che però, tanto bambini piangono, sì. Strafavorita dai pronostici, che però pare nelle ultime ore stia perdendo terreno in favore dei Balcani e del Caucaso. Non vi posso dire niente di più preciso. Però è questo sentore, ma è il nostro Mengoni invece, che appunto rappresenta l'Italia, come è stato accolto? Allora, tieni presente che l'esibizione di Marco è stata piuttosto sorprendente, perché molto diversa dai canoni dell'Eurovision. Io ho visto le prove, ma soprattutto ieri sera sono stata a quella che chiamano dress rehearsal, cioè la prova in vestito, diciamo vestiti, ed è una prova esatta, perfetta della serata di questa sera. Uh-huh. Serve a due scopi: uno, a far votare le giurie, per questo appunto ci sono già dei favoriti, ma non si può dire nulla perché i voti sono segreti, più o meno. Due, viene registrata, perché in caso di problemi tecnici, qualsiasi cosa succeda, questa sera c'è comunque una finale già pronta da mandare in onda. Ebbene, quindi io ho visto questa esibizione, molto bella, molto toccante, molto precisa, molto diversa dai canoni eurovisivi. Gli altri hanno tutti i fuochi d'artificio, paillette, invece Marco canta l'essenziale, insomma, di nome e di fatto. Però so che ad alcune giurie è molto piaciuta, non si può dire niente, però so che è piaciuta. Allora, la nostra percezione è che tu sappia già tutto, sappia il nome del vincitore, ma tu non ce lo voglio dire, vabbè, pazienza. No, ma c'è il televoto stasera, sì. Può cambiare molto, c'è il televoto per il 50%. Qua intanto mi chiedono cose che non hanno nulla a che fare col festival, ma mi tocca farlo. Hai fatto colazione con le aringhe? No, non ho fatto colazione con le aringhe, ma ci sono le aringhe nel banco della colazione, e la marca aringhe delle aringhe, cipolla. È Abba. Aringhe e cipolla. Certo. Aringhe e cipolla, sì, la marca Abba. E questo già mi faceva propendere per l'assaggiarle. Io sono molto coraggiosa, però ho paura che poi la giornata possa diventare un po' difficile. Marta, noi raccontiamo l'Europa qui, lì si respira, è una festa, è un circo, ovviamente, però c'è voglia di contaminarsi? Ti posso dire tantissima, è un'esperienza davvero che consiglio a tutti, anche perché questo festival è uno dei pochi, forse l'unico, che accredita anche i fan, quindi ci si può venire anche da appassionati, da fan, non comprando il biglietto, ma proprio con un accredito, e quindi con la possibilità di incontrare i cantanti e le delegazioni di tutte le nazionalità. È veramente una bella esperienza, e vi posso assicurare che tutti hanno molta voglia di conoscere gli italiani, di farsi raccontare, di conoscere gli artisti italiani, questo è molto bello. Non voglio sapere il tuo favorito, ma voglio sapere quello che più ti ha divertito. Allora, ti posso dire che il mio favorito, che è cambiato un po' con l'andare dei giorni, io sono molto appassionata dell'ungherese, okay, che è simpatico, la canzone è deliziosa, poi lo fa pure il giornalista, dirige una rivista di tatuaggi, è simpaticissimo. Più divertente, beh, insomma, i greci sono spirito veramente di divertenti, corpo. E io avevo anche una passione per gli svizzeri, che poi era la banda dell'esercito della salvezza, con Emil, 95 anni, che era molto triste, alla fine era molto dispiaciuto perché non hanno, insomma, hanno mancato la finale, e era veramente triste, mi è piaciuto molto per Emil. Ok, grazie Marta Cagnola, seguitela via Twitter perché sicuramente racconterà il minuto per minuto, immagino, della manifestazione. Ciao Marta. Poco ma sicuro. Ciao, grazie. Ciao ciao. 30 secondi per salutarci, un grazie a Paolo Bergamaschi, L'Europa oltre il muro, Infinito Edizioni, libro che vi consiglio veramente di sfogliare perché è un bel viaggio. E Paolo, in bocca al lupo per il tuo lavoro, perché vi aspettano mesi intensi. Grazie, grazie a tutti i radioascoltatori. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Miriam Lucchetti e Margherita Ina, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Ci trovate sul sito radio24.it, su Twitter e su Facebook. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.